24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca! E i fusi, come ignobile, dopo il feral sondaggio, freme, si indigna e esplode in un fatal messaggio. Dichiara, affranto e triste, ormai, lo dico piano, la destra non esiste. Se non ci metto mano per continuare l'impegno e non essere affranto, devo cambiare contegno, oppure è solo pianto. Eccolo qui, il nuovo 5 maggio versione Silvio Berlusconi, che ieri voleva parlare di cultura, ha detto sono il più grande imprenditore culturale d'Italia e ha dato la sua versione del 5 maggio e i fusi come immobile. Vorrei subito chiedere un giudizio a un critico culturale, Vincino, buongiorno, che ne pensi, che voto dai al 5 maggio berlusconiano? 3 meno, insomma, 2.5. Una mezza. 2, non lo so. Vabbè, fermati, che 1.25, ci avviciniamo allo 0. Voto variabile, dai. Proprio solo cambierei poeta, writer, come dire, no, ne ha centinaia, migliaia a sua disposizione, e lo so, cortigiani di natura, lo so. Vabbè, adesso dai. Comunque, quindi 3 meno, faccio il primo voto, quello che conta. 3 meno, sia un po' generoso, prof. No, bisogna dire che, come dire, un po' non se l'aspettavano, però, vabbè. 3 meno. Vabbè, è un voto durissimo, voto durissimo. Bocciato nettamente in italiano. Va bene, questo è 24 mattino. Saluto Miriam Lucchetti in redazione, saluto Pietro Lacorte in regia, ma sono le 6:37 minuti, ma che ora siamo entrati in onda? È sempre peggio, non lo so, ormai manda la sigla di chiusura, è così. Cioè, voglio dire, abbiamo mandato la sigla d'apertura, boh, mandiamo quella di chiusura e ciao. Va bene, apriamo il Parlamento, oggi va così. Domani andrà peggio, Ma un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento, forza. Venghino al Parlamento, dai, c'è anche Maurizio Tortorella, che è il vice direttore di Panorama, Buongiorno Maurizio. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Posso chiedere anche a te un voto, prof, tu che hai l'aria del prof? Io ho l'aria del prof, cazzi, che responsabilità. No, volevo sapere se lui l'ha letta o l'ha recitata a memoria. E questo... Perché se l'ha recitata a memoria, per me è un 12. Io una roba del genere ne ha mai nella vita, neanche l'originale. No, infatti, io ce l'ho qua davanti, quindi potrei leggerla. Non lo so, secondo me l'ha letta, ma non l'ho visto, non l'ho visto fisicamente. Diciamo 8, 12 non esiste, 8 per se l'ha recitata e come dire, come versi? No, come versi, secondo me ne ha sbagliato uno, il centrodestra non esiste, non se io non vi pongo mano, ma il verso giusto è per colpa un po' d'Alfano. Ah, vabbè, per colpa un po' d'Alfano. È migliorativo questo qua. È migliorativo, è la versione del poeta Tortorella, migliorativo. Alle 6:30 di mattina. Comunque mi dicono dalla regia che l'ha letta, ecco, l'ha letta. Allora, quindi dall'8 si scende al 6, ecco. 6:30. 6:30 di incoraggiamento, va bene. Comunque la notizia di ieri è la passeggiata di Renzi con quel tailleur grigio chiaro elegantissimo. È bello perché Vincino dice sempre... Sì. Ah, era una cosa, guarda, spettacolare. Vincino trova sempre la notizia che io non ho, fino a quel momento, che non ho notato. Allora, è vero, ieri Renzi ha accolto Ban Ki-moon, ex segretario dell'ONU, ex segretario generale dell'ONU, con un tailleur, proprio bello, beige, elegante, beige. Francese, perché beige, era grigio chiarissimo, grigio chiaro. quasi bianco, insomma, non si era mai visto nulla di simile. Per te quella è la notizia del giorno. Quella è la notizia, e poi ha detto anche che gli ordini del giorno non valgono niente. Gli ordini, non servono a niente. Gli ordini, infatti, ha ragione, gli ordini del giorno con cui si accapigliano dopo, quando hanno perso una votazione, poi sono gli ordini del giorno che il governo regala, concede, e che non serve a niente. Sono serviti una volta sola, sì, l'ordine del giorno Grandi servì a fare fuori Mussolini, non servirono più mai. Ecco, guarda subito Miriam, vedi che Miriam ha un'intesa convincente, un grigio chiarissimo e cravatta rossa. Questo com'era? No, così bello. Questo è bello, non lo so. Per te Maurizio Tortorella, la notizia del giorno qual è? Quella di ieri? La notizia del giorno, io vado più sul banale, ma io non sono con il vicino. Per me è stato lo scazzo violento tra i grillini e presidente di turno Calderoli. Calderoli. Quella è stata molto divertente. Le manette dei Grillini e Calderoli. Trovate le chiavi. Te lo faccio sentire. Allora, qua abbiamo tutto pronto. Eccoci qua, Calderoli, quando i Grillini si sono ammanettati in aula. Senatore Crimi, guardi che il regolamento non prevede che lei possa stare incatenato a martelli. Non so se è l'uno o il contrario, ma qualcuno dei due è imprigionato, così come il senatore Puglia, la collega che le sta a fianco, la senatrice Fattori. Guardate che vi posso, anche se manettati, possono essere portati fuori anche in colonna, e non è che io ho una contrarietà. Sono attaccati, non avete mai sentito parlare di Tronchesini? Chiedo ai commessi di recuperare gli strumenti. Colleghi, io risospendo la seduta, vado a cercare il fabbro. No, ma Vincino, ma cos'era Calderoli? Darei 8-9 a Calderoli. Autore dell'ordine del giorno di cui parlavamo prima, peraltro, cioè è un costituzionista di quelli ineffabili. Si Calderoli. Sono messi con le manette, vado a cercare il fabbro. Il fabbro, non ho paura. Non ho paura di farvi portare in via in colonna. Lui è un vecchio padano, è solido. Non ho mica problemi. Comunque, io alle 8:45 avrò ospite Vito Crimi. Madonna. No, vabbè, perché Vincino? Ci siamo, dai, ma tutte le volte che annuncio gli ospiti poi non so mai se rispondono quando li chiamiamo, perché alle 6:30 dite ma è un disastro, Vincino. Intanto a quest'ora dorme. Sì, secondo me anche, non avvisate Vito Crimi, insomma, che lo chiameremo alle 8:45. Comunque sentiamo ancora Calderoli, ce n'è un'altra, sentite che ha combinato, presiedeva ieri la seduta da vicepresidente del Senato. La democrazia e i diritti devono essere garantiti. Noi da qui oggi non ci muoviamo e ci dovrete portare via con la forza. Schiavi mai. Grazie senatrice Catalfo. Colleghi, gli spogliarelli nel Senato non sono consentiti e quando ci sono certi fisici sono anche sconsigliati. Quindi o vi rivestite. Ma con chi ce l'aveva? Con quel panzone là, era una cosa, guarda, terribile. Basta, non ditegli che lo dobbiamo chiamare alle 8:45, fermati Vincino, non ci risponde. Ieri Calderone ha giganteggiato. Sì, non ci risponderà mai più, ma insomma, dai. Grigni allora è elegante come Renzi, dai, per favore. Vabbè, comunque, al di là di tutto, Maurizio, tu che ami i grillini e si sa, ma hai capito il senso della protesta? Era per la fiducia, cioè per la fiducia posta, e quindi no, in realtà era per i contenuti del decreto della legge sul lavoro, ma in realtà a me fa un po' specie che loro protestino e si dichiarino schiavi mai, visto che in realtà accettano proni qualunque tipo di decisione arrivi dalla vertice del loro partito o del loro movimento o del loro o club, non so come chiamarlo, come la chiamano? Movimento? Come si chiama? No, ma come chiamano l'organizzazione al vertice? Ma chi? Non lo so, ma chi? La troica, non lo so. Come si chiama quell'altro? La biga, Casaleggio e Grillo, dai, su. Casaleggio e Grillo. Sembri Fede che fai finta che non ti ricordi i nomi. No, il problema è che non me lo ricordo. Ma Lo sai perché l'hanno fatta? Per i fotografi, fanno tutto per i fotografi. Io allora, l'altro ieri ero alle camere, a un certo punto vedo che i fotografi non stanno più da dove stavano prima, ma stanno da un lato totalmente opposto, che è il lato con cui si voltano i grillini e loro paffi, li beccano in prima. No, esattamente, e loro aspettano sì, ogni giorno la cosa che fanno, o le manette, o le cose, o il cartello, o la maglietta, o quell'altro, no, e ne fanno una al giorno, e come dire, non gli frega niente di che cosa le fanno, gli frega solo questa foto. I fotografi, fotografi. Comunque invece, e poi ripartiamo da qui dopo il traffico, per me la notizia del giorno, caro Vincino, caro Maurizio Dottorella, è questa: evade calandosi col lenzuolo, è successo a Palermo. È successo a Palermo e 6 mesi fa questo ergastolano era evaso nuovamente da Parma segando le sbarre e calandosi col lenzuolo. Cioè, non è una barzelletta, cioè, sembra Topolino, invece così, 2 volte è evaso. Vuole battere il record di Graziano Maisina. Sì, ho capito, ma calandosi col lenzuolo, cioè, è uno che ha le idee chiare. Sì, togliamogli le lenzuola, togliamogli le lenzuola, ecco, mi verrebbe. Mettiamole di carta, sì, esatto, facciamo delle lenzuola un po' meno resistenti. Va bene, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. 24 mattino. La Camusso vede la terra tremare sotto i piedi, ma lei non ha mai denunciato i privilegi della casta e i suoi, perché ce n'ha abbastanza. Tutti i sindacati hanno molti privilegi per andare in pensione. Non l'ha mai denunciato. È vero, questa volta sono arrabbiata. Rivolgo un appello al direttore. Basta calcio, basta parlare di omosessualità. Ognuno faccia quel che vuole. Guarda che Salvini è andato a Napoli per puro calcolo politico, sperando che succedesse quello che poi è successo. I napoletani, per fare un dispiacere politico, dovevano osannarlo e portarlo in trionfo, l'avrebbero fatto passare per l'amico del meridionale, chissà cosa dicevano i suoi dopo. No, non sono arrabbiata, sono contenta, è tornata Pierluigi Bersani, una persona per bene, competente, così diversa da questo saltimbanco che abbiamo a Palazzo Chigi. Si è parlato e si parla ancora di Paola Bacchidu, del suo lato B, delle foto eccetera, però ho sentito di questa sua conterranea della regione Sardegna, Miss Vitalizio, che a 41 anni si porta a casa una pensione, parentesi vitalizio, di 5.000 euro netti al mese. Perché i diritti acquisiti e le leggi regionali che sono state approvate? No. Basta, altro che cambiamento e riforme, no. Napalm, qui ci vuole il napalm, fare tabula rasa. È inutile che ci stupiamo di Genia Carogna, quello è figlio di Gigina Purpetta. Ma ve lo ricordate Gigina Purpetta? Vincino, te lo ricordi? Il presidente della provincia di Salerno, là, di Napoli, uno credo. Di quei 200 disgraziati. Cesaro, quello di... Mamma mia. Te lo ricordi che doveva pronunciare il World Economic Forum, che si era intortato 50 volte? Ecco, io non ho sentito mai un parere da Vincino su Genia Carogna. Questa mi interessa. Mi interessa proprio capire che ne pensa Vincino di Genny a Carogna. Che idea? Allora, dai, il parere te lo do su quello là, quel bugiardo di Alfano, che la trattativa è testata, l'hanno fatta, l'hanno cosata, l'abbiamo vista tutti, per favore, la piantassero già, indagano a Palermo, per cui assolutamente trattativa c'è stata e l'hanno fatta con quello là che un suo portamento ce l'aveva, diciamo, occhio e croce, no, della cosa, certo, però è un disastro, insomma. Vabbè, subito. Ho capito, ma io ti ho chiesto di Genia Carogna, non è che... Ho chiesto di Genia Carogna. Se lo sono inventati loro, no, non ho capito. Vanno in 20 con i questori, commissari, vicepresidenti di cose, vanno là da lei e Amesic, quello là, il Moicano, da quello là è chiaro che, come dire, sono loro che l'hanno evidenziato. Il Moicano sarebbe Amesic, no, per questa pettinatura. Sì, no, quello è già una cosa che, come dire, non... Va di moda tra i giovani, Vincino, sono cose che non capisci, dai. Come dire, il classico napoletano, dai, che... Ma va di moda tra i calciatori, guarda il Sharawi, guarda... Sì, no, ho capito che va di moda tra i calciatori quello là, essere i capelli alla Moicani, sono fatti loro, va benissimo. Sì, no? vabbè. Come cosa. Vabbè, comunque non so. Tu, Maurizio, che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda? È uscita la notizia, a parte che ci sono testimonianze a dire erano in due a sparare, e sempre più testimonianze concordano su questo, quindi sarebbe un vero e proprio agguato. La questura però smentisce probabilmente sulla base delle perizie balistiche. Sì, però insomma ci sono anche oggi sulla stampa testimonianze, uno che dice: oh, mi possono dire quello che vogliono, erano in due, io ero lì, l'ho visti, uno sparava. I boss lì per terra li avranno controllati, immagino, e quello resta sicuramente un elemento centrale e molto più forte di testimonianze, no, certo, che possono essere... Certo, e che invece questa storia della trattativa è una cosa incredibile, smentire la trattativa. Ancora ieri il giudice sportivo ha detto che i tifosi hanno detto: o parliamo col nostro capitano o invadiamo la partita. Quindi se non è una trattativa questa... Alfano è stato smentito in diretta in una maniera brutale, ha preso un colpo in testa, che ci vorrebbe altro che il moicano di Amsic per proteggerlo. No, ma sì, ma al di là della cosa politica è proprio una roba, insomma... Sì, no, no, non bella, se posso non dire. Bella, ma è sempre così. Poi mi fanno ridere adesso i vertici del calcio che dicono: ah, dovremmo fare come fece la Thatcher in Inghilterra. E fatelo! Fatelo, è da 20 anni che... Intanto la Thatcher, la prima cosa che fece è quando l'UEFA chiese via le squadre inglesi dall'Europa... Lo hanno fatto, lo hanno accettato a malincuore e sono rimasti fuori dall'Europa per un po' di anni. Fallo in Italia, fallo in Italia, poi vedi i tifosi che iniziano a rompere le palle. Ma è notorio che gli ultras sono legati e collegati alle squadre, e questo è il grande problema. Sono ricattatori fondamentalmente, e le squadre si fanno ricattare. Fino a che questo durerà non ci sarà niente da fare. No, ma è chiaro. Allora, io ho solo tempo per la copertina, ce l'ho qui di Panorama. Cosa avete fatto? Una cosa su vivere low cost, cioè dove si può andare, capito Vincino il messaggio? Vivere low cost, dove si può andare via praticamente. Sono 7 paesi. 80 euro al mese. Qual è il paese più facile? Beh, ce ne sono di varia natura e di vario continente. Tunisia e Bulgaria sono quelli nei quali si sta crescendo moltissimo l'esodo degli italiani, soprattutto grande, quelli anziani. In Bulgaria, Vincino, quelli anziani soprattutto, in Bulgaria. Voi prendete in giro, in realtà si vive benissimo con 1.100 euro. Io al massimo in Tunisia è più vicina da Palermo. No, ma infatti la Tunisia sarebbe ottima, invece che a Palermo, invece che a Mondello vai in Tunisia. Crack si fu il precursore della Tunisia. Comunque, con pochi risparmio con la pensione, soprattutto in base ad accordi bilaterali che permettono di detassare la tassazione. No, giustamente Maurizio Vincino dice: Craxi fu precursore di quelli che andarono in Tunisia. Vabbè, ma Vincino è così, ce lo dobbiamo tenere così. Se ci va è così, e se non ci va è così lo stesso. Va bene. Comunque a un euro oggi Panorama. Oggi Panorama a un euro. Attenzione, affrettatevi in edicola. Oggi grande occasione, a un euro. E allora grazie a tutti, alla prossima. Urban Forum. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Vabbè, la viabilità al traffico lo recupereremo alle 7.45, non manca mai tanto gli aggiornamenti, c'è stato qualche piccolo problema tecnico, ma siamo qui alle 7.18 minuti, cari ascoltatori, allora siete pronti a produrre, come dico io, sempre razza di debosciati. C'è gente che scrive... Come se io non accetto, gente che scrive al direttore, non accetto di essere trattato, insultato, come debosciate. Oh, ma si scherza! Ma l'ironia sapete che cos'è? Mamma mia, ragazzi, quanti permalosi, quanti schizzinosi, quanti debosciati d'Italia. Vi abbraccio tutti, debosciatoni, siete il mio mito, il mio amore, il mio pubblico, e quindi siete santi, debosciati e santi per me. E allora, cari ascoltatori, alle 7:18 minuti, ora leggeremo i giornali. Vi ricordo che parleremo poi, come ci ha mandato qualcuno un messaggio in segreteria, della vicenda dei vitalizi alla regione Sardegna. Ha fatto scalpore questo vitalizio all'ex presidente del Consiglio regionale della Sardegna, 41 anni, 5.000 euro al mese avrà adesso di vitalizio, credo un po' di più, 5.100, avrà come vitaliziata dalla regione Sardegna. Avremo ospite il neo presidente del Consiglio regionale, abbiamo anche contattato l'ex presidente Lombardo, credo si chiami così, ma ha declinato l'invito, ha detto preferisco non intervenire, anche se non smentisce la notizia, il concetto molto banale sono leggi fatte da altri, non ci si può far niente, devo prenderli questi soldi, non ho scelto io, non ho fatto io le regole del gioco, questa è la difesa che si può fare in questi casi, l'unica. Parleremo anche con Vito Crimi alle 8:45, senatore del Movimento 5 Stelle, uno di quelli che si è ammanettato, incatenato, che hanno combinato, vabbè, insomma hanno protestato un po' in maniera visibile quantomeno ieri al Senato alle 8:45. Ora andiamo a leggere i giornali per l'appunto. In questo giovedì 8 maggio, intanto i titoli, il decreto sul lavoro che ha ottenuto la fiducia al Senato, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, lavoro così cambiano le regole, ma anche per la stampa, lavoro passa la flessibilità, questo è il titolo, mentre l'Unità, lavoro sia fiducia, caos 5 Stelle, il Manifesto invece lo definisce il posto fesso. Questo è il titolo dedicato al decreto Poletti sul lavoro. Poi ci sono titoli vari, il Corriere della Sera ha un sondaggio, i 5 Stelle e il voto fino ai 44 anni, è un sondaggio su come votano le persone in base all'età, in base alla cultura, in base anche al genere, donne e uomini. Grillo è primo tra i giovani, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre per Repubblica il bonus cambierà, più soldi ai poveri e alle famiglie. Le riforme invece, le riforme del Senato che slittano. Ah, slitta, sì, vabbè, ma slitta. Dovremmo diventare campioni mondiali di slittino noi in Italia. 43 senatori PD pronti ad affossare Renzi. Questo è il titolo di apertura di Libero, è una dichiarazione del vicepresidente del Senato Calderoli. Per il Fatto Quotidiano invece il PD riforma il Senato con Berlusconi, poi lo denuncia per corruzione. Il Messaggero invece ancora sulla vicenda dell'Olimpico, ultra inchiesta sulla trattativa, mentre il Giornale, illegale l'inchiesta Ruby. E come vedete le aperture sono diverse, ce ne sono altre, vedremo, le vedremo nel corso della rassegna stampa. Intanto la notizia che sembra una notizia dei fumetti, sembra una notizia presa dalle barzellette o dai film di quarta serie sulle evasioni dei carcerati, e che qualche mese fa io vi avevo raccontato, vi ricordate, forse i più fedeli se lo ricordano, quando dissi carcerato evade annodando, segando le sbarre, annodando le lenzuola, le sbarre segate e fuggendo. Era successo, è risuccesso, ma la cosa incredibile è che è risuccesso allo stesso carcerato che è stato pescato, è stato preso la prima volta dopo che era evaso da Parma con questo stratagemma, e ora l'ha rifatto, è stato messo a Palermo, e guardate i titoli dei giornali, carcere Colabrodo, lenzuola annodate per fuggire. Una pagina sul quotidiano Libero, sul quotidiano nazionale, sul Messaggero, ma anche su Repubblica, evade calandosi col lenzuolo. Salvo Palazzolo racconta, pagina 20, la storia di questo ergastolano, una persona giudicata molto violenta, si chiama Valentin Froccai, 36 anni, albanese. Dopo l'ultima clamorosa evasione dal carcere di Parma, fatta con le lenzuola, lo avevano trasferito nel super penitenziario al Pagliarelli, a Palermo. Eppure lui, sistemato in isolamento nel braccio di alta sorveglianza, quello dove sono reclusi i mafiosi più pericolosi, si è organizzato e, come nei film, per la seconda volta in pochi mesi hanno dato 4 lenzuola, le ha lanciate nel cortile sottostante dopo la passeggiata del dopo pranzo, ha atteso che le guardie si allontanassero, ha avuto tutto il tempo per scavalcare il secondo muro, una cancellata, e si è ritrovato sulla circonvallazione libero. Ma sembra una cosa incredibile, e ovviamente il carcere nella bufera, i sindacati protestano, non c'era nessuna guardia carceraria sul muro di cinta, ora c'è la caccia all'uomo. Chi lo descrive adesso, chi lo cerca, lo descrive come un uomo violento. Nel 2007 aveva ucciso un connazionale a Brescia al culmine di una lite scoppiata all'interno di un bar. Nel febbraio dell'anno scorso era fuggito da Parma con un altro numero da film, segando le sbarre della cella e calandosi con le lenzuola. Oh, diamogli le lenzuola di carta, come prima ci suggeriva Maurizio Tortorella, se lo ribecchiamo, se lo ripeschiamo. Comunque, il titolo è un po' su tutti i giornali questa vicenda, che sembra uscita da, ripeto, da un film di serie C delle evasioni dal carcere, ma invece è tutta tragica realtà in Italia. A proposito di vicende legate alla realtà, forse non so se avete visto questo spot, lo spot che vede alcuni protagonisti, sono 5 immigrati regolari in Italia che fanno questo spot in lingua, ognuno nella loro lingua di appartenenza, cioè uno che viene dal Bangladesh, uno che viene dall'India, uno dallo Sri Lanka, uno dall'Angola. Dicono, rivolgendosi ai propri concittadini, il concetto: non venite in Italia. Mi appello a tutti gli africani, dice per esempio questo angolano, non pagate gli scafisti, oppure un altro, questo dello Sri Lanka, non illudetevi, qui l'Italia non offre niente più a nessuno, non venite, non c'è lavoro. Chi ha ingaggiato questi immigrati per farne uno spot è il leghista Angelo Ciocca, candidato nel Nord-Ovest per la Lega. Ideatore di questa provocazione viene intervistato da Marco Bresolin sulla Stampa, pagina 8. Immigrati nello spot leghista. Eccoli qui, non è una provocazione ma un servizio pubblico, dovrebbero farlo tutti, dovrebbe farlo il governo, dovrebbe farlo i TG nazionali, dovrebbe farlo la Boldrini, dice Angelo Ciocca. Loro, quelli ingaggiati, sono più leghisti dei leghisti, vogliono che chi è regolare venga giustamente trattato come gli italiani, ma per i clandestini non c'è più posto se non nella delinquenza. Ovviamente la stampa chiede, ma ha ingaggiato 5 attori tutti regolari? Ma ci mancherebbe, abbiamo chiesto le loro copie dei permessi di soggiorno e li abbiamo reclutati con un casting a Milano. Ma li avete pagati? Ma pagati, diciamo un piccolo rimborso spese. È normale, gente che lavora, è venuta tra casting e registrazione, ha speso un'ora e mezza del loro tempo, gli abbiamo dato 50 euro a testa. Tutti hanno firmato una ricevuta, facciamo le cose in regola. Insomma, il leghista Angelo Ciocca guadagna un po' di titoli sui giornali, anche sul Messaggero. La Lega arruola gli immigrati negli spot, non venite in Italia, qui si fa la fame. Per la verità, l'iniziativa viene bollata sul quotidiano Il Manifesto in maniera ben diversa, questo in prima pagina, in un commento a firma Luca Fazio. Lo spot respingente, questo è il titolo: datemi 5 negri che vi fermo il mondo, scrive Il Manifesto. L'Angelo Ciocca da San Genesio ed Uniti, una delle capitali della Lega nella bassa Lombarda, ha avuto un'idea geniale delle sue, ha confezionato uno spot per vincere le europee senza far vedere il culo, solo la faccia. L'idea è reclutare 5 immigrati che balbettano una sacrosanta verità davanti alla telecamera. L'Italia fa schifo, dunque, cari amici che affogate nel Mediterraneo, statevene a casa vostra. Questo è il cuore del progetto di respingimento della clandestinità che Ciocca si è impegnato a portare a Bruxelles, mentre il suo capo Salvini, senza tante sofisticherie, si sta facendo dare del buffone razzista in giro per l'Italia. Conclude questo commento molto urticante Luca Fazio: guardate la faccia di Ciocca, ecco il messaggio subliminale in grado di scoraggiare anche il peggiore degli scafisti. Quel volto che assomiglia a tantissimi altri, che in qualche modo ci somiglia, fa proprio venir voglia di andarsene da questo paese. Questa è la vicenda della Lega, mentre continua a puntate l'inchiesta di alcuni giornali sulle presunti favoritismi, e c'è un'inchiesta in corso per alcune docenze che sono state date all'interno delle università italiane. La procura di Bari sta indagando su assunzioni sospette. Sapete che da giorni prima l'ex garante della privacy Pizzetti era sotto accusa per avere favorito il figlio. Lui ieri ha smentito in varie interviste. Oggi La Stampa intervista proprio il figlio di Pizzetti, Federico Pizzetti, docente di diritto pubblico alla Statale di Milano, che, intervistato da Andrea Rossi sulla Stampa, dice: mai aiutato, tanto che ho perso 3 concorsi. Io e mio padre abbiamo fatto 2 percorsi diversi, non sono un cooptato, vuole la verità. Dice: negli ultimi anni ho partecipato a 3 concorsi per ottenere l'idoneità da professore ordinario, li ho persi tutti. Beh, anche quelli per cui si sarebbe speso suo padre, tutti. Le commissioni hanno valutato che c'erano colleghi migliori di me, non mi hanno concesso l'idoneità. È tutto pubblico, atti, valutazioni, graduatorie. Allora mi dica, dove sarebbe l'aiuto? Beh, lei però adesso è un professore ordinario. Sì, ho ottenuto l'abilitazione nazionale 3 mesi fa. Oggi però le procedure sono cambiate, sono molto diverse, non ci sono più stati concorsi di quel genere. Dunque suo padre non l'ha favorita, chiede La Stampa. Ho sempre seguito un percorso diverso dal suo. A Torino, dove insegna mio padre, ho lavorato 6 mesi come dottorando, dopo essere stato all'Università del Piemonte Orientale, prima di arrivare a Milano. Mio padre è spesso a Roma, ci vediamo pure poco. Vabbè, ma magari essere il figlio di Francesco Pizzetti un po' l'ha agevolata nel suo percorso, o no? Guardi, credo sia meglio far parlare il mio lavoro. Chiunque può leggere il mio curriculum sul sito dell'università. È lungo 36 pagine, ho 97 pubblicazioni, altre 3 usciranno quest'anno. Comunque dice: sono tranquillo, non mi sento accusato. La vicenda università continua. Intanto noi ci prendiamo una piccola pausa, la pubblicità, cari debosciati, e poi riprendiamo con le altre notizie dai giornali. 24 mattino. Eccoci allora alle 7:34 minuti. Beh, ringrazio quelli che mi sono vicini, quelli che mi dicono che quelli che non hanno umorismo sono interisti, e questo è assolutamente condivisibile. E colui che mi scrive: Jenny, non a Carogna, si firma da Napoli. Anch'io mi offendo se mi chiami debosciato, sono napoletano, pretendo che mi chiami sfasulato. Che vuol dire sfasulata? Ho sfasulata, genio sfasulata, grazie. Allora, parliamo di che cosa? L'apertura per molti giornali è quella del lavoro, anche il Sole 24 Ore apre così, perché ieri al Senato c'è stata la fiducia, ora ci vuole un ulteriore passaggio alla Camera, perché è stato modificato il decreto Poletti dalla Camera al Senato, e quindi ci vuole una definitiva approvazione alla Camera. Ieri c'è stata una bagarre, avremo ospite anche il senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, si sono ammanettati, hanno protestato, schiavi mai, questo hanno esposto nella maglietta. Credo che schiavi mai si riferiscano al fatto che secondo il Movimento 5 Stelle questo decreto genera troppa precarietà. Comunque tutte le novità sono a pagina 3 del Sole 24 Ore. Davide Colombo e Claudio Tucci spiegano: contratti, le multe al fondo occupazione, questo è il titolo. Le più importanti novità sono queste: i contratti a termine non richiederanno più una giustificazione per 36 mesi, prima il limite era di 12 mesi e valeva solo per il primo rapporto. Il numero delle proroghe sale da 1 a 5, nel testo originario del decreto legge Poletti si poteva arrivare a 8. Viene però introdotto un tetto del 20% di utilizzo dei rapporti a tempo, e per chi supera il limite scatterà una sanzione pecuniaria meno punitiva dell'obbligo di stabilizzazione. La multa che dovrà essere versata allo Stato andrà a finanziare il fondo occupazione, oscilla dal 20% della retribuzione complessiva per il primo caso di superamento nella singola unità produttiva, che aumenta alla metà della retribuzione complessiva per i casi successivi. E poi novità sull'apprendistato: si abbassano le quote di stabilizzazione introdotte dalla legge Fornero. Ovviamente ci sono tantissimi dettagli, piano per piano e punto per punto li trovate sul Sole 24 Ore. La bagarre è stata fatta, immortalata anche dai fotografi con queste magliette schiavi mai esposte dai senatori del Movimento 5 Stelle. Cercheremo di capire perché questo senso della protesta alle 8.45 appunto con Vito Crimi. Comunque tutti i giornali raccontano e mettono alcuni in apertura questa vicenda. A proposito di lavoro, di questioni sindacali, invece ieri si è consumato un vero e proprio confronto duro al congresso generale della CGIL, era abbastanza annunciato perché Landini, leader della FIOM, era atteso e da tempo aveva creato più di una frizione all'interno della CGIL. Ieri il sindacalista 52enne di Reggio Emilia ha sfidato la Camusso, leader della CGIL. Questo almeno si legge dai titoli dei giornali, il Corriere della Sera pagina 5, Landini sfida Camusso, ora più trasparenza e pubblichi online i conti. Ecco, c'è questa immagine della casa di vetro, ha utilizzato questa espressione, così dovrebbe diventare il sindacato secondo Landini. Ecco Landini il rottamatore, titolo del Fatto Quotidiano pagina 6, la CGIL sia una casa di vetro, trasparente nei numeri, nei bilanci, nelle spese, negli stipendi, consapevole che non c'è più tempo per il rinnovamento, non perché ce lo chiede Renzi, ma perché ce lo chiedono i lavoratori. Se Renzi ha consenso, ha aggiunto Landini, è anche per i nostri errori. Dobbiamo muoverci perché a volte i lavoratori pensano che fare il sindacalista significhi essere pagati dallo Stato. Che gli diciamo? E tra l'altro Landini è stato proprio identificato da mesi, da quando c'è Renzi al governo, come l'interlocutore privilegiato dello stesso Presidente del Consiglio nella dinamica sindacale. Questo a scapito della Camusso, per molti anche questo è il motivo della frizione vera tra Renzi e Camusso, è perché Renzi avrebbe identificato più in Landini l'interlocutore più disponibile a colloquiare con le istituzioni. Tra l'altro sul Corriere della Sera c'è proprio un'indagine, spesso ci si concentra su questa tematica, Enrico Marro lo fa, pagina 5, il titolo è "Ma quanto valgono CGIL, CISL e UIL?" e c'è questa cifra, 1,2 miliardi, poiché CGIL, CISL e UIL vantano insieme 12,3 milioni di iscritti, sono per definizione una potenza economica. Ogni iscritto paga infatti una tessera, una quota mensile, trattenuta sullo stipendio o la pensione all'incirca dell'1%, trattenuta a vita, salvo disdetta per iscritto. Un lavoratore, insomma, si può stimare prudentemente che versi al sindacato in media circa 130 euro all'anno, un pensionato 60. Considerando che i lavoratori iscritti alle tre confederazioni sono 6,3 milioni, si tratta circa di 828 milioni, ai quali si sommano altri 360 milioni che arrivano da pensionati e altri iscritti disoccupati, per esempio. In tutto quasi 1,2 miliardi che arrivano dai tesserati. E questo rappresenta certamente la quota maggiore delle entrate del sindacato. Ma ci sono anche risorse che vengono da finanziamento pubblico, diretto e indiretto, come scrisse Giuliano Amato nella relazione consegnata al governo Monti nel 2012, che lo aveva incaricato di far luce sul tema. Amato si soffermò su tre voci: i distacchi sindacali nel pubblico impiego, cioè lavoratori che fanno i sindacalisti ma continuano a prendere lo stipendio dell'amministrazione pubblica, i fondi e i patronati che assistono gratuitamente lavoratori e pensionati, in particolare nelle pratiche previdenziali, i fondi ai CAF che si occupano invece di compilare e trasmettere le dichiarazioni dei redditi. L'ex premier Amato concluse che ci sono margini solo sui distacchi nel pubblico impiego che causano assenze retribuite dal lavoro corrispondenti a 3.655 dipendenti l'anno per un costo di 113,3 milioni di euro. Insomma, è interessante questo articolo di Enrico Marro che fa un po' luce, cerca di far luce su conti che non sono, si sa, sempre così, così limpidi, ma sono tenuti un po' all'oscuro. Comunque, più trasparenza nella CGIL è ciò che chiede Landini. Mentre, per quel che riguarda i provvedimenti economici, segnalo l'apertura di Repubblica che dedica la prima pagina, il titolo e anche pagina 2-3 sul bonus IRPEF, sulla possibilità di modifica. Non è che sto cercando di abbattere il microfono, ma mi stavo spostando e Repubblica era un po' ingombrante in questo momento. Allora, gli 80 euro mensili potrebbero cambiare, così ha detto il ministro Delrio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per la verità Delrio, e Roberto Petrini racconta, pagina 2 e 3, il caso più eclatante di squilibrio che mi ha segnalato anche qualche ascoltatore scrivendomi una mail, ed è assolutamente corretto, riguarda l'omissione evidente e nota. Chi è stato lasciato fuori dal bonus perché guadagna ad esempio 28.000 euro non avrà diritto a niente anche se ha un solo stipendio e figli a carico, cioè il tema del quoziente familiare. Chi ha più figli a carico ma magari guadagna di più alla fine non beneficerà del bonus, e magari uno che non ha figli e guadagna meno beneficia del bonus, ma alla fine i figli costano, e quindi modulare questo bonus degli 80 euro in base anche al numero dei figli. La questione del quoziente, insomma, in vigore in Francia e in Germania, molto costoso, non è nuova, scrive Repubblica, non riguarda solo il bonus Renzi. Già oggi la famiglia con due redditi, dove lavorano entrambi i coniugi, è avvantaggiata rispetto a quella monoreddito. L'esempio che si porta più di frequente è quello di una famiglia dove un solo componente ha uno stipendio di 60.000 euro e una dove invece in due guadagnano 30.000 euro ciascuno. Il nucleo monoreddito, per effetto della progressività, paga di più della somma delle tasse dei due coniugi. Ma comunque Delrio ha detto e ha evocato l'introduzione del quoziente familiare. Ora non fatemi fare la facile battuta, forse Delrio l'ho anche pensato perché lui ha 9 figli, mi risulta 9. Non so, Mauro Meazza del Sole 24 Ore, buongiorno, ti risulta buongiorno, anche a te? Buongiorno, anche a me risulta 9, complimenti. 9 o 7, perché no, non vorrei appiopargliene due così. Insomma. Mi ricordavo 9, comunque 9. Effettivamente anche a 7 diciamo che come riduzioni, come detrazioni per i carichi di famiglia, il sottosegretario è ben piazzato. Il sottosegretario Delrio ha 9 figli, quasi una squadra di calcio, quasi. Se ci mettiamo io e te, caro Mauro, con i figli facciamo una squadra mista di 11 figli. Noi che abbiamo cognomi calcistici possiamo... Certo. Volevo complimentarmi perché ho visto che hai... come dire, sdottoreggiato sul quoziente familiare, me ne compiaccio, è un tema peraltro eterno. Devi sapere che nella predisposizione del decreto sul bonus IRPEF scrivevamo sul Sole 24 Ore questo possibile legame anche con i carichi di famiglia, ma poi si è presa un'altra strada e adesso ti vorrei dare un numero, uno solo, 1655 o 1655, che è il codice tributo per i sostituti d'imposta per il recupero appunto del bonus IRPEF da 80 euro. Dove ho preso questo numero, indovina un po', nelle pagine di norme e tributi. 1655, se vuoi giocarlo come te, come ambo. No, infatti, oppure chiamare, non so, rispondere, non è che risponde la Guardia di Finanza. Non mi risulta. Comunque, 1655 o 1655, come volete. Poi, vabbè, la giornata del DL Lavoro, naturalmente, con tutte le spiegazioni nelle pagine 2 e 3. Però restando sul tuo bonus IRPEF, quegli 80 più 2 euro che hai, che mi vedrò passare, li darò a qualcun altro. Sì. Ma guarda, leggi anche Valsania su Alibaba, la quotazione di questo colosso cinese a Wall Street che sembra molto promettente. Sì. Oppure, insomma, se vuoi notizie sempre legate alle ali, ma non così positive, c'è un aggiornamento sulla lettera, su altre lettere di Etihad e richieste. Però Mauro, mi sembra che ti abbiano suonato alla porta poco fa. No, credo che sia mia moglie che riceve dei messaggini, ma non so bene da chi a quest'ora. Non volevo fosse la Guardia di Finanza. No, vorrei anche che tu non mettessi il dito nella piaga, voglio dire, in pubblico. No, assolutamente, non metto. E comunque, intanto domani vediamo se verrà varato il DDL autoriciclaggio. Scusa, mi hai distratto con questa cosa. Sei innervosito con il messaggio di tua moglie, diciamo. Innervosito. Mia moglie, ecco, vorrei un quoziente familiare anche sugli SMS, insomma. Effettivamente adesso non vorrei inzigare, ma le 7.45 è un po' strano, è un po' presto. Cioè, comunque no, ma Mauro, non importa. Dobbiamo andare avanti a parlare dei fatti miei o segnaliamo magari come il prelievo fiscale sui capannoni, i mutari tasi IUC, si becchi oramai una crescita di po' raddoppio di più, come dice Luca Orlando oggi sul Sole. Interessante. Vabbè, comunque, interessante. Quello lo puoi vedere da te. Senti, non ho un aggancio oggi per lanciare l'abituale saluto. No, però perché domani... sei innervosito. Questa è la mi sono innervosito, mi hai distratto e mi sono innervosito. Comunque, ti volevo dire che domani noi attendiamo un disegno di legge su voluntary disclosure. Sì. Sai quella cosa di riportare i capitali all'estero. E autoriciclaggio. Allora, ottimo, allora l'attendiamo. Allora facciamo così, lo lancio io il traffico, perché tu mi sai che adesso hai da fare, Mauro, e quindi però sai che è vietato consultare gli SMS degli altri. No, quindi... infatti. Sì, non è il capo mi tenciona, fai tu questa volta. Va bene, faccio tutto io. Grazie Mauro, domani ci fai sapere se ci sono novità. Grazie, è il momento del traffico. Allora ringrazio tutti coloro che da Reggio Emilia non solo mi dicono sì confermiamo, sono 9 i figli di Del Rio, non 7, io avevo questo dubbio, ero più certo quasi per il 9, però 7 non lo so, volevo togliere 2 figli, invece no, 9 per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Allora, detto questo, c'è tutto il capitolo delle riforme, riforma del Senato che slitta dopo le europee, c'è una grande tensione sul testo. Il ministro Boschi oggi fa un'intervista ad Avvenire. Rinviamo perché le riforme non sono bandiera elettorale. Dice che non ha mai pensato alle dimissioni, come si vociferava nei giorni scorsi, in questa intervista concessa ad Arturo Celletti e Luca Mazza, la potete trovare a pagina 9 di Avvenire. Non solo non ho mai detto dimissioni, ma non l'ho nemmeno mai pensato. Per me la parola dimissioni non esiste oggi, non esisterà domani. C'è un testo di partenza su cui lavorare, certo nell'iter parlamentare ci saranno modifiche, ma un punto è stato fissato. Vabbè, fa una lunga intervista di una pagina, dire ottimismo. In realtà, secondo Roberto Calderoli, che è il più attivo nel volere ora il Senato elettivo, una cosa che non piace per nulla a Renzi, dice in un'intervista a Libero, attenzione, a Brunella Bollolli a pagina 2, nel PD ci sono 43 pronti a tradire. 43 pronti a tradire, così Roberto Calderoli. Vabbè, magari è tutta campagna elettorale, magari si tiene alta l'attenzione. Certo, però c'è molta attenzione verso quello che ha fatto per esempio il senatore Corradino Mineo, che fa parte di questa minoranza del PD, così viene definita. Sul Quotidiano Nazionale c'è un'intervista di Andrea Cangini, dice Mineo a furia di spallate Matteo andrà a sbattere. Lei canta vittoria, Renzi canta vittoria, voi avete perso dunque? No, guardi, è solo per una questione di stile che non cantiamo vittoria, ma tanto per dirne una, è chiaro che nonostante l'irrigidimento del governo la riforma prevederà l'elezione dei senatori, così come è scritto nel disegno di legge Chiti. Dunque Renzi fa il suo mestiere, cerca di trasformare un parziale insuccesso in un parziale successo. Mineo, che viene detto sul Secolo XIX, con il quale Renzi parrebbe infuriato, Renzi avverte Mineo e i ribelli dovranno spiegare agli italiani, racconta Alessandro Di Matteo sul Secolo XIX, che è infuriato Matteo Renzi, il mezzo smacco subito sulle riforme con l'approvazione dell'ordine del giorno del leghista Calderoli al posto di quello concordato è un fatto che preoccupa il premier, e vedere il senatore PD Corradino Mineo che si defila al momento del voto, come capitava a Romano Prodi nel 2006 con i vari Turigliatto e Rossi, è semplicemente inaccettabile per il premier che coi suoi si è fatto sentire. Dopo le europee tutto questo non dovrà più accadere. Il ribelle Mineo, così viene definito, viene intervistato anche dal Corriere della Sera, da Monica Guerzoni, dice noi siamo maggioranza, Matteo eviti forzature. E vabbè, su questo devo dire ci sarà abbastanza tensione. Tra l'altro lo stesso Corradino Mineo è protagonista di un'altra vicenda, come racconta Repubblica con Emanuele Lauria a pagina 12, c'è una polemica all'interno del PD per una serie di deputati che non hanno pagato la quota che dovrebbero al partito per l'elezione. E questa quota da 25.000 euro. Tra questi c'è Corradino Mineo, che però nella lettera che ha spedito al partito per spiegare il perché non versa la quota scrive questo: quei 25.000 euro non vuole sapere di pagarli. Uno dei passaggi della lettera delle motivazioni è questo: per accettare la candidatura ho lasciato la RAI e una retribuzione più alta dell'attuale. Quindi il contributo di solidarietà è troppo. Già nel 2013 ho versato 14.000 euro al PD, ne ho spesi 24.000 per l'attività in Sicilia. Ho dovuto pagare una multa da 900 euro al comune di Valderice per l'affissione irregolare di manifesti. Ho sopporto un canone da 800 euro per l'affitto di un appartamento a Milano. Insomma, è troppo. E dunque pago per progetti visibili, ma non per finanziare le auto blu del segretario e le assunzioni di comodo nel partito. Se avessi prima saputo di questo mercimonio, avrei rifiutato il posto in lista. Purtroppo avevano già organizzato la conferenza stampa. Insomma, Mineo è uno di quelli che non paga questi 25.000 euro al partito e dice non solo ho rinunciato a 60.000 euro dalla RAI a scendere in politica, non ho fatto un favore a nessuno, mi hanno pregato per farmi candidare, questo è un obolo che non voglio pagare. Vabbè, polemica all'interno del partito. Devo chiudere sempre in fretta, eccolo qua. C'è solo tempo per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi mi attirerò polemiche, lo so già. Repubblica, che dedica due pagine a Morfeo. Che cos'è Morfeo? Morfeo. Enrico Franceschini ha provato Morfeo. Cos'è Morfeo? Il casco della Sony che ti porta in una realtà virtuale, in battaglia e negli abissi marini, su un'astronave o nei videogame, usato alla medicina ma anche per il sesso. Ma chi se ne frega di Morfeo? Ma guardate la realtà con gli occhi invece che coi caschi virtuali, dai, che la carta costa. Andiamo, giornale radio. 24 mattino. Siamo qua alle 8:20 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, intanto avete sentito la notizia sicuramente di questa mattina, di pochi minuti fa, se vi siete collegati, è stato arrestato questa mattina l'ex ministro Claudio Scajola dalla direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria. L'accusa avrebbe favorito la latitanza di un imprenditore. Se ci fossero ulteriori dettagli, ovviamente vi terremo aggiornati, perché è una notizia che è arrivata proprio questa mattina, una ventina di minuti fa, come abbiamo sentito anche nel giornale radio. Però quindi vi terremo aggiornati sulla vicenda Claudio Scajola, ma vogliamo partire a raccontare che cosa? Beh, quello che può succedere nel magnifico mondo della politica, dove si scoprono cose, parafrasando un celebre film, verrebbe a dire che voi umani. Da un paio di giorni, grazie a un sito sardo, Sardinia Post, poi rilanciato dal Corriere della Sera in pompa magna da Gian Antonio Stella, abbiamo, udite udite, la più giovane pensionata dalla politica. Si chiama Claudia Lombardo, ha fatto 4 legislature come consigliere regionale in Sardegna, è stata anche presidente del Consiglio regionale e oggi a 41 anni può beneficiare di un vitalizio da 5.100 euro netti al mese. Vitalizio, quindi a vita, pensione, dopo 20 anni in Consiglio regionale a 41 anni. Ne vogliamo parlare con l'attuale presidente del Consiglio regionale della regione, Gianfranco Ganau, del Partito Democratico. Buongiorno presidente, eccoci qua. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, ovviamente, come ben sa, la notizia ha fatto un po' scalpore e devo dire che l'ex presidente Lombardo ha spiegato che dal punto di vista della legge, come succede in questi casi, non c'è nulla di illegale, è tutto a norma di legge, com'è possibile però aver generato questa situazione? Ma guardi, siamo in una coda di quei privilegi che riguardavano la politica e che negli anni progressivamente sono stati modificati. Questo è un fatto assolutamente clamoroso, la stessa Presidente Lombardo lo riconosce, perché nel 2000, quando hanno iniziato a fare le modifiche, hanno salvaguardato i diritti di quella legislatura, di chi era già in quella legislatura. Sì. E la Claudia Lombardo, la giovanissima, era in consiglio regionale dal 94 e quindi lei ha acquisito in quella legislatura il diritto di ricevere la pensione al termine del mandato che si è concluso. Per esempio, la prima stessa giustificazione che Claudia Lombardo ha mandato in una lettera di precisazione è io pensavo già di prenderla da quando avevo avuto 50 anni e invece, siccome c'era la norma vigente nel 94 quando sono stata eletta, che mi poteva permettere di prenderlo da subito, da appena uscita, e quindi a 41 anni è così così, così aveva anche dichiarato che la pensione sarebbe scattata dal 50° anno, che è già comunque un privilegio, perché poi successivamente anche il Consiglio regionale ha modificato, oggi nessuno può prendere la pensione prima di 60 anni e sono 5 anni, quindi si è giustamente adeguato, però lei è rimasta con questo tipo di privilegi che devo dire per fortuna sono stati progressivamente modificati, soprattutto negli ultimi due mandati e anche sotto la sua presidenza. È stata eliminata, la Regione Sardegna ha iniziato un percorso virtuoso prima ancora delle norme regionali. Oggi non esiste nessun vitalizio, per esempio è stato abolito completamente il vitalizio per i consiglieri regionali di questa legislatura, da questa legislatura non esiste più il vitalizio. Cioè, ma non esiste più nel senso di... Non esiste anche se uno fa 20 anni, no? No, non ha più diritto al vitalizio, non dà più pensione. Non c'è più pensione. L'essere consiglieri regionali non dà nessun diritto a... Questo però, come si è detto varie volte, da oggi al futuro, ecco, purtroppo è così. Per esempio, un'altra questione è, ma non ci fu la legge, il decreto Monti che alzava 60 anni, 66 per tutti la pensione? E si è spiegato, certo, ma questo valeva solo per le regioni che non avevano già abolito il vitalizio. Siccome la regione Sardegna l'aveva abolita un anno prima di questo decreto Monti, però capisce, Presidente, che il paradosso è che non si è applicato per quello e si sono mantenuti i diritti acquisiti. Come mai per gli italiani questi diritti acquisiti non valgono e per la politica sì? Ma guardi, io la penso, credo come tutti gli italiani, che questi diritti non possano esistere per nessuno. Il problema è anche da un punto di vista giuridico che chi ha acquisito questo tipo di diritto da un punto di vista normativo non può metterli in discussione, non possono essere messi in discussione da chi interviene successivamente. Questo purtroppo è, anche se devo dire ci sono anche dei provvedimenti in corso, non so quanto sostenibili giuridicamente, anche presentati proprio in questi giorni in consiglio regionali, che prevedono addirittura l'abolizione dei privilegi pregressi. Va tenuto presente che comunque una parte di, cioè i contributi pensionistici sono quelli che sono stati versati. Però capisce il senso della domanda, voglio dire, si dice tante volte quando è stata fatta la riforma Fornero, non è che si sono stati dei diritti acquisiti degli italiani. Mi rendo perfettamente conto. Poi il problema è se abbiamo strumenti per intervenire su questo, aprendo comunque un capitolo che è tutto da vedere. Certo che la politica negli anni devo dire ha dato degli esempi che sono clamorosi, quindi questo credo che sia proprio una delle code. 41 anni è una pensione importante, credo che insomma susciti giustamente indignazione e non aiuti la politica in un momento così delicato. D'altra parte però, Presidente Ganau, c'è un'altra polemica su questo fatto, perché non sono, ieri anche Gian Antonio Stella lo ribadiva, non sono resi pubblici questi elenchi di persone che godono del vitalizio. So che voi dite c'è la privacy, ma pare che non sia così. No. Cioè si possono sapere questi elenchi. Non è così. Noi non abbiamo mai detto c'è la privacy. Noi abbiamo detto che avremmo avuto necessità di approfondire un attimino un parere del garante della privacy che riguardava la regione Lombardia, che praticamente non era chiarissimo da questo punto di vista. Il parere è arrivato proprio ieri, ieri, che era un parere che rimetteva la decisione sulla sensibilità di questi dati, sulle caratteristiche di questi dati allo stesso Consiglio regionale. Quindi era stesso alle 15, è arrivato alle 12, alle 15 è stato convocato l'ufficio di presidenza che all'unanimità ha deciso di rendere pubblici questi dati. Entro oggi saranno a disposizione di tutti i cittadini. Questa è una notizia che ci sta dando, cioè ci sta dicendo, Presidente, che entro oggi in che forma? Sul sito? Saranno pubblicati sul sito del Consiglio regionale tutti i dati, sono 413 vitalizi che vengono erogati dall'inizio della legislatura, fino a oggi, e saranno tutti quanti resi pubblici. Perché quindi entro oggi ci può ma è chiaro, ci può dire anche entro oggi a che ora più o meno, così i cittadini poi non Guardi, io ho chiesto agli uffici di lavorarci, addirittura di cercare di farlo entro ieri sera. Io sono andato via che erano le 8 di sera, stavano ancora lavorandoci, però erano in alto mare perché si tratta di un'opera di ricostruzione di 413 posizioni, quindi sì, stavano procedendo a quello senza fare errori, perché in questi giorni tra l'altro stanno circolando dei dati che sono assolutamente in che senso? Quindi in che per senso? Evitare di fare pasticci credo che sia un attimino, però entro oggi mi hanno garantito che saranno pubblicati, esattamente l'orario non glielo so dire. No, vabbè, comunque entro oggi verranno che riescono a pubblicare. Mi sembra una cosa di trasparenza, voglio dire, pubblicare tutto l'elenco dei ne scopriremo di altre delle belle, caro Presidente, o no? Non di questo livello di sicuro, no? Poi negli anni, se no stiamo parlando di 40 anni circa, c'è chi ha percepito pensioni anticipatamente, però a 41 anni non credo, almeno non questo sì. Ma senta un po', ma lei si sente in qualche modo di condannare politicamente ovviamente Claudia Lombardo, oppure dire vabbè, ma che deve fare, la legge glielo consente e quindi li prende, non lo so, davvero non c'erano le pieghe per intervenire in qualche modo e dire questa cosa è una situazione effettivamente un pochino scandalosa, non che prenda la pensione ma che la prenda a 41 anni, gliela daremo quando avrà 50 anni, quando avrà 60. Ma guardi, io addirittura sapevo che l'avrebbe presa a 50 anni, perché lei così ha dichiarato che era già un fatto, diciamo, di favorito rispetto alle condizioni normali, perché prendere la pensione a 50 anni oggi non è nelle cose. Ma c'era la normativa del 94. Esatto. E poi è venuta fuori questa cosa qui, quindi gli uffici hanno applicato quelle che sono le norme, le regole. Poi io non entro nel merito di valutazioni che... Vabbè, sì. Staremo a vedere. Intanto ci ha dato una buona notizia, io credo di poter dire, cioè che entro oggi verranno resi noti tutti i vitalizi della regione Sardegna, non quello, ovviamente anche quello di Claudio Lombardo, che però è stato appreso grazie ai giornalisti in questo caso. La ringrazio, Presidente, per essere stato con noi. Gianfranco Ganau, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Andiamo un attimo in pubblicità, rimaniamo su questo tema, ma avremo anche Vito Crimi, il senatore del Movimento 5 Stelle. Se riusciamo vi daremo anche degli aggiornamenti sull'arresto di Claudio Scajola, è la notizia di questa mattina, se vi siete collegati ora. È stato arrestato l'ex ministro Claudio Scajola dalla direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, certamente la notizia clamorosa che è piombata in redazione questa mattina, pochi minuti fa. Andiamo ora in pubblicità, rientriamo tra poco. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:35 minuti, ovviamente sono molte le persone interessate a questo argomento, insomma la vicenda sempre dei vitalizi, una vicenda che riguarda la casta della politica. Intanto io voglio salutare a questo proposito il direttore dell'Unione Sarda, Anthony Muroni. Direttore, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti voi. Allora, direttore, poco fa, mentre non era collegato, abbiamo saputo dal Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, che Ganau, che oggi il Consiglio ha deciso di rendere noti entro oggi tutti i vitalizi della Regione. Ce lo ha annunciato, insomma, perché hanno recepito dopo questa battaglia. C'era stata una lunga battaglia sulla questione della privacy, no? Beh sì, da una settimana che noi chiediamo con la nostra inchiesta che vengano resi noti i nomi. Ganau, devo dire che per una settimana ha fatto muro, nonostante la dichiarazione già di qualche giorno fa del garante Soro, solo nella serata di ieri è arrivato questo annuncio. Arriveranno i nomi, ma i nomi ci sono già, per esempio c'erano già sul nostro giornale ieri, ci sono già sul nostro giornale di oggi i 21 consiglieri per i quali è stato approvato il vitalizio nel marzo scorso. Alcuni di loro sono baby, cioè hanno meno di 50 anni, e come Claudia Lombardo. Una è Claudia Lombardo, che è quella che è diventata più celebre, anche perché è stata pizzicata, diciamo, è diventata colei che è la più giovane in Italia a godere 41 questo, anni, 5.000 euro al mese, aveva dichiarato appena il 13 marzo scorso che non avrebbe preso la pensione prima dei 50 anni, e la nostra inchiesta è partita da quello, proprio perché non abbiamo creduto a quella dichiarazione pubblica. In questo elenco di neopensionati ci sono anche un consigliere che è stato recentemente condannato per l'inchiesta dell'utilizzo dei fondi ai gruppi, ce ne sono altri 9 che sono addirittura, e nonostante ciò prende il vitalizio. È stato ammesso a prendere il vitalizio, l'ha preso per la prima volta nel marzo 2014, anche questo non si sapeva, e ci sono altri 9 dei 65 indagati sardi per l'inchiesta sui fondi, per la gestione dei fondi dei gruppi, che a loro volta sono stati ammessi a godere del beneficio della pensione a partire da marzo 2014. Noi sul giornale di oggi denunciamo anche, per esempio, quella, il brutto vezzo dell'indennità di reinserimento. Voi pensate, sì, che ci sono un sacco di consiglieri che hanno fatto più di una legislatura, che prendono l'indennità di reinserimento legislatura per reinserirsi in consiglio regionale, cioè continuano a fare i consiglieri regionali ma prendono ugualmente l'indennità io pensavo che l'indennità di reinserimento valesse solamente se uno torna alla propria vita, diciamo, precedente. Invece prendono un'indennità di reinserimento e si reinseriscono a fare quello che stavano facendo. Sì. E poi molti di loro nel frattempo non avrebbero neanche bisogno di questa indennità di reinserimento, perché gli avvocati, mentre sono consiglieri regionali, continuano a fare gli avvocati, i commercialisti continuano a fare i commercialisti, sì, gli imprenditori continuano a fare gli imprenditori. Ovviamente i nostri ascoltatori sono molto, per esempio ci scrive un ascoltatore via SMS e dice: buongiorno, anch'io lavoro da 15 anni, avevo 15 anni, ne ho 41, vado all'INPS a prendermi la pensione. E vabbè, non funziona così per tutti, direttore Muroni, non funziona così per tutti. Alcuni italiani sono più italiani degli altri. Vorrei, parafrasando una celebre frase, vorrei salutare i nostri ascoltatori. Angelo ci chiama dalla provincia di Bergamo. Angelo, buongiorno. Grazie che riesco a parlare qualcuno dell'INPS, forse potrà dare una delucidazione perfetta per me essere convinto. Sì. Allora, io sono andato in pensione nel 58, sono un agente di commercio e percepivo una pensione di quasi 1300 euro. A 65 anni ho preso quella dell'Enasarco, che erano altri 1500 euro ogni due mesi. Quest'anno, cioè a fine anno, vedo decurtarmi quasi 4.000 euro. Angelo, scusi, guardi, io non è che la voglio interrompere, ma io cosa ci posso fare? Cioè, io non è che sono dell'INPS, direttore dell'Unione Sarda, non lavoro all'INPS. Dato che ho sentito parlare che prima parlavate delle pensioni. Sì, ma parlava di pensioni dei politici, in questo caso, dei vitalizi. Perché loro non vengono mai decurtati da niente. Noi vediamo sempre decurtati da chi continua a pagare. Allora, questo, il senso di questo intervento lo posso capire. Cioè, lei dice, era questo che volevo dire. Bene. Dopo 50 anni, 47 anni che sto versando, perché verso ancora, vengo a percepire una pensione da fame, che uno dopo 5 anni viene a percepire 5.000 euro. Va bene, no, ma è chiaro, questo è il senso della denuncia, questo lo posso capire. Sentirei Leonardo da Prato, ci chiama, grazie intanto Angelo. Leonardo, buongiorno. Sì, buongiorno Milan. Sì. Senta, io avevo un'idea, non so se è una bischerata, come si dice qui a Prato, oppure... Ce la dica questa bella bischerata. Però tutti si appellano continuamente ai famosi diritti acquisiti. Quando gli si chiede di rinunciare, dicono: non posso rinunciare perché tanto me lo danno lo stesso. Allora mi dico io: ma perché non si fa una legge che prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria ai diritti acquisiti? È una cosa fattibile? È una legge per la quale si può rinunciare ai diritti acquisiti? Non lo so, vediamo. Per esempio, mettiamola in questioni pratiche, lo chiederei al direttore dell'Unione Sarda Muroni. Ma non c'è bisogno mica di fare la legge. Questi signori, per poter incassare il vitalizio, hanno dovuto presentare una domanda. Si figuri lei se poi vi rinunciano. Hanno presentato la domanda per essere ammessi a prendere la pensione a 41 anni. Dico un'altra cosa: siccome poi sono classificate non come pensioni ma come vitalizi, su questi non pagano le tasse, sono esentasse. L'assegno di 5.100 euro è esentasse, così come sono esentasse l'indennità di reinserimento. Ma è incredibile questa cosa. No, ma però effettivamente, però, direttore, visto che aveva detto Claudio Lombardo: non prenderò il vitalizio prima dei 50 anni, poi ha precisato invece: siccome sono stata eletta nel 94, ho scoperto che vigono le leggi di quando io sono entrata per la prima volta. Ho dimenticato di aggiungere, ho preferito comunque tenerlo nascosto dopo che l'ho scoperto. Preferito. Diciamo, non era una pubblicità di quelle da fare. L'ha tenuto ben nascosto, facendo credere che sarebbe andata a 50 anni. Se non l'avessimo chiesto noi, non si sarebbe mai saputo che lei prende la pensione a 41 anni. Perché questo... il Consiglio regionale si coprono uno con l'altro. Ma la domanda è: con la domanda. Ha detto, la Consiglio regionale della Sardegna non voleva darci i nomi. No, è chiaro, ma la domanda è: ma avrebbe potuto rinunciare a questo? Beh, in teoria, forse, perché, per esempio, lo stipendio del parlamentare, del senatore, l'abbiamo detto tante volte, è irrinunciabile per legge. Cioè, uno non può neanche volendo rinunciarvi. È una garanzia, allora, diciamo, per l'indipendenza. In questo caso, quando ci sono deroghe, tra virgolette, rispetto a... c'è un decreto, che è il decreto Monti, che dice che i consiglieri regionali e tutti quanti quelli che beneficiano di vitalizi da cariche elettive non possono prendere la pensione prima dei 66 anni. Ogni consiglio regionale, poi, chi aveva già legiferato, ha fatto delle deroghe. In Sardegna si era deciso, chi fa una sola legislatura la prende a 65, chi ne fa due la prende a 60, chi ne fa tre a 55. Per essere ammessi a queste deroghe rispetto alla legge nazionale, bisogna fare una domanda. Dunque non c'è bisogno di rinunciare, basta che uno non fa la domanda e non viene ammesso a percepire la pensione, certo, prima del tempo. Mi sembra una cosa logica. Ovviamente, direttore, a parte la questione della funzione fondamentale in questi casi del giornalismo, cioè raccontare quello che succede, c'è però chi mi scrive: vabbè, ma dopo che sappiamo i nomi delle persone che beneficiano, ovviamente immagino anche sfiduciato come cittadino che ci scrive, dopo che sappiamo i nomi di chi beneficia di questi vitalizi, che cambia? Allora, la prossima battaglia è chiedere al Consiglio regionale di riunirsi di nuovo e di togliere questa interpretazione che dà la possibilità a chi ha meno di 50 anni di prendere la pensione, mi sembra il minimo. Pretendere assoluta trasparenza. Il Consiglio regionale della Sardegna non pubblica, non applica il decreto Monti, dunque non pubblica le dichiarazioni dei redditi dei consiglieri. Però ci ha detto il Presidente che in realtà i vitalizi sono stati per il futuro, saranno aboliti adesso. Per il futuro, sì, sono stati aboliti, ma questi 317, io auguro a loro di vivere a lungo. Lei pensi, la Lombardo, le donne hanno un'aspettativa di vita di 84-85 anni, sì. Prenderà il vitalizio per i prossimi 44 anni, dunque è inutile che noi lo aboliamo adesso, intanto per i prossimi 40 anni dobbiamo pagarla questa pensione alla Lombardo e a tutti gli altri. Lei pensi che la Sardegna per i vitalizi spende ogni anno 18 milioni di euro, lei sa che la Sardegna ha 1,5 milioni di abitanti, immagino che sappia quanti abitanti ha il Piemonte, sì, che è molto più grande sia come popolazione che geograficamente della Sardegna. Bene, il Piemonte ogni anno spende 8 milioni di euro contro i 18 milioni della Sardegna, la Toscana spende 4,5 milioni di euro contro i 18 milioni di euro della Sardegna. Cioè è inutile che i signori politici sardi continuino a fare annunci, a dire abbiamo abolito, abbiamo fatto, abbiamo tagliato, siamo trasparenti. I numeri hanno la testa dura e tutte le cose che vengono fuori ci dicono che sono annunci, sono tentativi di prendere in giro l'opinione pubblica. E guardi, in Sardegna ci sono il 42% di disoccupazione giovanile, il 22% di disoccupazione, non ci sono i soldi per pagare la cassa integrazione, mobilità, e noi dovremmo sopportare tutto questo. 18 milioni sul groppone, chissà per quanto. Direttore, le faccio ascoltare Paola, ci chiama da Carbonia, proprio della sua regione. Buongiorno Paola. Buongiorno a voi, e volevo dire, buongiorno a tutti, volevo dire che io ho perso il mio lavoro, chiamo da Carbonia appunto, la città dell'onorevole Lombardo, perché se non sbaglio la signora è di Carbonia. Non lo so, direttore di Carbonia, è di Carbonia, dica Paola. È un territorio, come sapete, forse sapete tutti in che condizioni siamo, no? Depauperato dalla politica che c'è stata in questi anni. Comunque io volevo dire che è vergognosa questa cosa, è vergognosa, sono molto indignata, si capisce anche dal tono della mia voce. Non si può nella terra, io sono conterranea di Gramsci, va bene, di Gramsci, di Berlinguer, di Emilio Lussu, e sono un'elettrice di sinistra, io ho votato la giunta a Pigliaru e quindi sono uno dei tanti datori di lavoro della giunta Pigliaru, visto che li ho votati, e chiedo al presidente Ganao, se ancora in ascolto, non più. Al signor Muroni, di fare qualche cosa, io non so cosa possono guardi, fare. Allora, il direttore può fare solo il lavoro giornalistico, denunciare, che cosa si aspetterebbe? Ganao ci ha detto, e vorrei chiedere a Paola se lei è soddisfatta da questo, ci ha detto adesso per il futuro non sarà più così, le basta Paola? Buongiorno. Sì, vabbè, no, non ho sentito la coda. Comunque, direttore, cosa potrà succedere? Insomma, perché effettivamente se uno tocca i diritti acquisiti, poi la Corte Costituzionale boccia i ricorsi. Come intendete? Io non credo che in questo caso si possa parlare di diritti acquisiti. Guardi, la Corte Costituzionale non mi risulta che abbia bocciato nessun ricorso degli esodati, che anche loro avevano dei diritti acquisiti, o di chi è stato sottoposto ai vari gradoni pensionistici che via via le riforme Dini, Maroni e tutto il resto hanno fatto. Non mi risulta che la Corte Costituzionale abbia mai dato ragione ai cittadini contro lo Stato, ma in questo Stato, in questa Italia, può anche darsi che la Corte Costituzionale dia ragione ai politici che fanno ricorso contro chissà, i cittadini. Chissà, voglio dire un'altra cosa, grazie alla vetrina che mi concede solo 30 secondi. Mentre accade tutto questo, vorrei che si sapesse che per quel che riguarda l'alluvione in Sardegna del novembre scorso, dove ore e ore di trasmissioni televisive, ore e ore di trasmissioni radiofoniche, ministri che sono arrivati, Presidente del Consiglio, lacrime, lo Stato non ha messo un solo euro, le comunità sono ancora abbandonate, dopo 9 mesi non sanno cosa fare e pensate un po', persino i soldi raccolti con la beneficenza non si possono spendere perché una volta che entrano nelle casse del comune sono sottoposti ai vincoli del patto di stabilità. Insomma, lei mi dica come i cittadini e i sindaci possono accettare. No, ma è chiaro, è come possono anche accettarlo. Intanto io, direttore, la ringrazio e torneremo su questa vicenda, soprattutto se oggi verranno pubblicati questi vitalizi della Regione Sardegna e magari ne scopriremo di altre belle o brutte. Grazie a Anthony Muroni, direttore dell'Unione Sarda. Dopo il traffico è con noi il senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, è già con noi. Buongiorno senatore, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Un attimo, le chiedo la cortesia di attendere un minuto, il traffico e sono da lei. Eccoci qui allora col senatore Vito Crimi, uno di coloro che ieri nel Senato si è, come dire, Crimi, incatenato, legato, come dovrei definire? Siamo ammanettati. Ammanettati, che già la scena delle manette in Parlamento, sa che qualcuno le vede di buon occhio magari dei cittadini. Qualcun altro teme, mentre i cittadini... Teme. Di buon occhio. A proposito di questo, scusi, non ho visto l'associazione Manette, però non so se ha saputo la notizia di questa mattina che è stato arrestato Claudio Scajola, l'ex ministro. No, gliela dico. No, pensavo si riferisse a Genovese, all'autorizzazione. No, esatto, c'è stata anche la notizia. No, allora, la notizia di questa mattina, ma sono infatti arrivata 20 minuti fa, è stato arrestato Claudio Scajola, l'accusa aver favorito la latitanza di un ex parlamentare Mattacena, è stato arrestato dalla DDA di Reggio Calabria. Invece ieri, tra l'altro, in giunta avete votato anche il primo sì all'arresto di Francantonio Genovese, sul quale Genovese, per... Sì, questo è stato votato alla Camera, è stato un lungo parto. Adesso le dico anche che insisteremo sulla calendarizzazione immediata alla Camera, perché l'autorizzazione concessa dalla Giunta non è definitiva, deve essere ovviamente ratificata dalla Camera. Chiaro. Quindi toccherà alla Boldrini calendarizzare il prima possibile. Mm. E voi siete perché si proceda con l'arresto? Noi siamo perché i diritti dei cittadini siano uguali a quelli dei politici, per cui però... siano dei privilegi, ecco, mettiamo in questo. Mi dica invece cosa è successo ieri, perché ieri questa bagarre, le magliette schiavi mai, è stata un modo per ottenere un po' di visibilità ai fotografi, oppure che? Guardi, in un certo senso sì, cioè nel senso la visibilità dobbiamo purtroppo cercarcela e dobbiamo cercarla su quei provvedimenti vergognosi, ma visibilità non per noi, ma perché i cittadini sappiano cosa stanno approvando, perché questo decreto approvato ieri farà la fine della legge Fornero, sarà una di quelle cose di cui ci si pentirà nei prossimi anni, una di quelle cose in cui vedremo tutti i partiti in campagna elettorale spendersi per abbatterlo, per abrogarlo e fingere, diciamo, in campagna elettorale di tutelare i cittadini, i lavoratori. Ma come, scusi, abrogarlo? Cioè, lei sta dicendo i partiti che lo votano adesso vorranno abrogare questo provvedimento, il decreto Poletti, riforma del lavoro? Questione di 1 o 2 anni, come la legge Fornero. La legge Fornero è stata approvata da questi partiti e adesso sono tutti lì. La legge Fornero dovrebbe essere abolita, l'hanno detto in campagna elettorale per prendere voti, nessuno ha ancora abolito la legge Fornero e siamo ancora qui, l'unica riforma che bisognava fare era l'abolizione della legge Fornero e non è stato fatto. Senta, ma perché voi dite nella maglietta schiavi mai? Non ci sarebbe bisogno davvero di una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro? Bene, allora stiamo parlando di flessibilità e sicurezza, flex security, questa è la ricetta, la panacea, ecco, le indica quando si è mai affrontato il tema della security, cioè degli ammortizzatori sociali, tutti i sistemi di garanzia per i lavoratori precari, flessibili. Si è parlato esclusivamente di flessibilità e si è nuovamente precarizzato, aumentato la precarietà e adesso è stata tolta anche la motivazione e deve essere inserita nei contratti per giustificare l'assunzione a tempo determinato. Ma sa questo perché? Ma questo, sa questo perché? Ma è il mio. È l'abrogazione dell'articolo 18. Sì. Vabbè, ma guardi che secondo me l'articolo 18, secondo lei ai giovani, ai ventenni, ai venticinquenni, ai trentenni interessa la questione dell'articolo 18 o vorrebbero un lavoro magari più flessibile ma pagato meglio, magari avendo un po' più di diritti perché si tolgono un po' più i diritti a quelli che il lavoro ce l'hanno, che una volta che sono nel mercato del lavoro non li toglie più nessuno. Sto parlando di un lavoro flessibile e pagato meglio. E quindi vogliamo chiederlo ai giovani oggi che hanno lavori precari se vengono pagati meglio? Questo però è il motivo per cui non sia così. La mia teoria è che c'è troppi diritti per chi è nel mercato del lavoro e non li si può toccare per nessun motivo, per nessuna ragione, qualunque cosa facciano, e questo a scapito invece dei giovani che non hanno per questo i diritti che rispettano. Questo non è proprio così, e lo dico anche nel pubblico, a differenza di come viene detto, è possibile licenziare, nel pubblico è possibile intervenire, qualora ci fossero delle dirigenze, che utilizzando quanto previsto dai contratti, quanto previsto dai regolamenti, dai codici di comportamento. Spesso no, ci sono accondiscendenza, per cui che non possiamo parlare di diritti, di eccessivi diritti. No, ma io non è che dico eccessivi diritti, che bisogna prendere le persone e buttarle fuori a calci, però lei dice si può licenziare. Io vedo sempre che quando si licenzia poi c'è un giudice che reintegra in qualsiasi modo, ripeto, guardi, questo volevo far notare, perché i casi del reintegro sono talmente pochi che vengono sempre utilizzati come casi scuola, come casi fanno tanto rumore, ma quanti sono i licenziati giornalmente che vengono lasciati in mezzo alla strada di cui nessuno parla? Spesso non hanno nessun giudice che li tutela. Certo, forse perché vista la situazione che si è creata di crisi e visto il mercato del lavoro così rigido, si arriva poi alla situazione paradossale di aziende che non ce la fanno più e devono chiudere. Comunque io saluto anche Mauro Meazza, che è venuto qui a trovarmi. Adesso mi chiedono tutti aggiornamenti sulla situazione. Mauro Meazza è uscito di casa, cioè è qui in redazione, quindi questo è già un aggiornamento che possiamo dare sull'SMS arrivato questa mattina alle 7.45 a casa. Intanto do la linea al giornale radio ringraziando Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Pietro Lacorte in regia. Gli ultimi sviluppi ovviamente sulla notizia del giorno di questa mattina, l'arresto di Claudio Scajola. A domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.